Grazie Mario. Facciamo un applauso forte a Mario, ma quanto è stato bravo! Mamma mia! Come siamo, Chiesa? Che bello essere qui, che bello essere la sposa, il corpo, la famiglia di Dio. O no? Siete d'accordo? Bellissimo. Io ho nel cuore un messaggio molto, molto semplice, che però ho la convinzione ha il potenziale di cambiare la nostra vita, perché è preso direttamente dalla parola di Dio, dalla Bibbia, e la Bibbia è l'unico libro al mondo che ha proprio questa capacità, che ha proprio questa autorità di parlare ai nostri cuori, di parlare al nostro spirito, di nutrire, istruire, educare le nostre menti affinché possiamo vivere veramente. E il titolo di questo messaggio che sto per condividere con voi, che siete la mia famiglia bellissima, è proprio questo: vivere veramente. Oggi vedremo che cosa significa vivere davvero, essere vivi davvero. E l'ultima volta che ho predicato qui ho lasciato, insomma, la metà dei miei capelli. Vi assicuro che oggi non succederà questo, perché vivere veramente non vuol dire necessariamente farsi tagliare i capelli dalla nostra Teresa, però lo vedremo insieme. E sapete, Chiesa, io ho avuto un'infanzia abbastanza ordinaria, molto bella, una famiglia meravigliosa, papà, mamma, che hanno sempre pregato per me, che mi hanno educata secondo i principi di Dio, sono cresciuta in questa chiesa. La mia infanzia è stata veramente bella, ordinaria, ma molto molto bella. L'unica cosa che penso che mi abbia contraddistinto da tutte le mie amiche quando eravamo bambine era il gusto dei film, no? Erano le preferenze, no? Era lo scegliere: vediamo questo film o vediamo quello, vediamo questo cartone animato o vediamo quest'altro cartone animato. Sapete, quando le mie coetanee vedevano film come, non so, Diari di principessa o Legally Blonde, non so, ditemi qualche altro film un po' così, Mamma ho perso l'aereo, queste cose qua, io, grazie a mio padre, vedevo Il Gladiatore, sì, vedevo We Were Soldiers, vedevo Braveheart, vedevo Cuore impavido, vedevo tutti questi film che, diciamo, avevano molto poco di educativo, devo dire la verità, papà. Erano molto, diciamo, impegnativi. Quanto hanno visto Braveheart? Ecco, quanti anni avevate? Sicuramente non avevate 7 anni come ce li avevo io. Però questo ha contraddistinto la mia infanzia e sto portando le conseguenze di questo ancora, però Dio è buono e va oltre i danni che possono essere fatti attraverso questi film. E mi ricordo Braveheart, che è il film preferito di mio padre, forse anche dei miei fratelli, era il mio, adesso il Signore mi ha salvata. Mi ricordo che il protagonista, che è interpretato da Mel Gibson, vabbè, questo non è un dettaglio molto, il protagonista, che si chiamava William Wallace, faceva questa affermazione: oltre nessuno mi può derubare della mia libertà. Oltre a questa, ne ha fatto un'altra, e lui diceva: tutti gli uomini muoiono, ma non tutti vivono davvero. Tutti gli uomini vivono. No, scusate, tutti gli uomini muoiono alla fine, prima o poi, tutti moriremo, tutti gli uomini muoiono, ma in realtà non tutti vivono davvero. E a me questa affermazione mi ha fatto molto riflettere, perché la domanda non è se siamo vivi, perché è chiaro che siamo vivi. Se siamo qui vuol dire che le nostre gambe ci hanno portato qui. Stamattina ci siamo svegliati, Abbiamo incominciato a respirare, a mezzogiorno ci siamo mangiati la nostra bella e sana lasagna, il nostro cuore batte, i nostri cervelli, salvo qualche eccezione, funzionano tutti alla perfezione. Siamo vivi, o no? Sì? Chi è vivo stasera? Perfetto, ok. E se hai qualche dubbio, certamente avrai un codice fiscale, avrai una carta d'identità, al comune certamente avranno il tuo certificato di nascita, quindi se ti viene, diciamo, il dubbio che tu sia vivo o meno, sei vivo, puoi guardare il tuo certificato di nascita. La domanda è se in realtà stiamo vivendo veramente. Perché che siamo vivi è certo, ma la domanda è: stiamo vivendo sul serio? Stiamo vivendo fino in fondo? Stiamo vivendo davvero? O le nostre giornate sono semplicemente un susseguirsi meccanico delle stesse azioni, degli stessi pensieri, delle stesse emozioni? Stiamo vivendo davvero? O semplicemente stiamo occupando un posto su questo pianeta che ci ospita? Stiamo rubando dell'ossigeno all'atmosfera? Questa è la domanda alla quale noi vogliamo dare risposta questa sera. Se siamo vivi davvero. E sapete, molti di noi, che lo ammettiamo meno, forse stanno ancora aspettando quella vera vita. Stanno ancora aspettando di incominciare a vivere sul serio, di incominciare a vivere davvero fino in fondo. E guardiamo che vi devo dire, guardiamo il nostro datore di lavoro, lo guardiamo mentre lavora un quarto delle ore che magari lavoriamo noi e guadagna il triplo di quello che guadagniamo noi. E lo guardiamo e diciamo, quello sì che sta vivendo davvero. Quello sì che sa come godersi la vita. Allora ci impegniamo a lavorare di più, ad avere una carriera importante, così che possiamo incominciare a vivere davvero come fa lui. Oppure vediamo i nostri amici, questo mi tocca personalmente, vediamo i nostri amici che si sposano uno dietro l'altro e ci pensiamo, quando capiterà a me, allora sì che potrò incominciare a vivere davvero. Allora sì che avrà inizio la mia vera vita. O forse vediamo i nostri parenti, i nostri amici, i nostri conoscenti, che finalmente si comprano la casa che hanno sempre desiderato, che possono comprarsi quella macchina che tu hai sempre desiderato, invece se la comprano loro, che finalmente partono per l'ennesima vacanza e tu ti dici, quelli sì che stanno vivendo veramente, quelli sì che si godono la vita e allora anch'io mi impegno per guadagnare di più così posso ottenere di più, per avere più relazioni, per lavorare le mie amicizie, per collezionare delle cose che crediamo ci possano dare la vera vita. E in realtà tutte queste cose che ho detto non sono malvagie, non è brutto avere una casa, non è peccato studiare e avere una carriera, non è male questo, ma possono davvero questo tipo di cose farci vivere veramente? No, la risposta è no. Antonio, per cortesia. Può davvero un fidanzato, un marito, una casa, delle amicizie sane, un lavoro che ci soddisfa, può davvero farci vivere sul serio? Farci vivere veramente? No! No, esattamente. E allora, che cosa significa vivere davvero? Se tutte queste cose che ci circondano e che forse desideriamo, siamo tutti d'accordo che non ci possono portare a vivere veramente fino in fondo, che cosa può farlo? La risposta è nella parola di Dio. E io proprio in questo momento mi sono ricordata che non ho dato i versi. Che bello! E quindi stamattina, tra l'altro, se ne è dimenticato mio padre e io l'ho sgridato dicendo, papà, ma per cortesia, ma non ti ricordi mai? Bene, buon sangue, non mente. Quindi lo leggerò io, lo leggerò lentamente. Se avete le vostre Bibbie sui vostri iPhone, telefoni, smartphone, apriteli e andate in Efesini 2, Efesini capitolo 2, dal verso 1 al verso 10, lo leggeremo insieme. E stiamo cercando di capire, secondo Dio, secondo la sua parola, che cosa è che ci fa vivere veramente? Che cos'è che ci permette di vivere la vera vita fino in fondo? Ci siamo? Siamo concentrati? Efesini 2, dal verso 1. Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche voi, anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Verso 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa grandezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi. È il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti, noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le praticassimo o affinché camminassimo in esse. Questa è la parola di Dio oggi, stasera, per la mia vita e per la tua vita. Se ti stai domandando che cosa significa vivere veramente, numero uno, vivere veramente vuol dire abbandonare il peccato. Dio ha vivificato, ha dato vita a voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Antonio, se vuoi prendere quello che è. Dove c'è il peccato, non c'è vita. Dove c'è il peccato, c'è morte. Vivere nel peccato, non abbandonare il peccato, vuol dire vivere per finta. Vuol dire essere degli zombie. Vuol dire essere morti. Perché dove c'è il peccato, c'è morte. Vivere nel peccato significa non vivere veramente, accontentarsi di non vivere veramente. Sapete, molti studiosi hanno definito il peccato come mancare il bersaglio, come un mancare il bersaglio. Sapete, Dio ha creato l'uomo con un'intenzione ben precisa. C'è un bersaglio, Dio l'ha istituito e l'uomo puntualmente l'ha mancato. Dio ha creato l'uomo affinché ci potesse essere una relazione profonda, personale, sincera, costante con Lui. Dio vuole essere amato dall'uomo e vuole amare l'uomo. Dio vuole essere adorato, ha sempre voluto essere adorato dall'uomo. Per questo l'ha creato. Aveva un'intenzione specifica, precisa, perfetta per l'uomo. Ma l'uomo non ha centrato questo bersaglio. Il bersaglio per l'uomo era l'ubbidienza alla volontà di Dio. Era amare Dio e adorarlo. Il bersaglio, essere al centro della volontà di Dio per l'uomo, era ubbidirli. Ma l'uomo ha usato molto male la libertà di scelta che gli era stata data e quindi ha incominciato a mancare il bersaglio, ha incominciato a disubbidire. E allora Dio ha detto A e l'uomo ha fatto B. E questo vuol dire che ha incominciato a mancare il bersaglio, ha incominciato a peccare, ha incominciato a ribellarsi da Dio, ha incominciato ad allontanarsi da Dio, ha incominciato a peccare. Questo vuol dire peccare. Questo vuol dire essere nel peccato, cioè disubbidire, non centrare quel bersaglio, non centrare, non essere al centro della volontà che Dio ha per ognuno di noi. E Romani 5:12 dice, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. In altre parole, da quando l'uomo ha incominciato a mancare il bersaglio, il tiro al non bersaglio è diventato lo sport preferito dell'uomo. Il tiro al non bersaglio. Tutti siamo stati in quella condizione, nella condizione di disubbidienza, nella condizione di distanza da Dio. Perché? Perché il suo bersaglio, la sua volontà non l'abbiamo centrata. E questo vuol dire, ritornando al verso di Efesini che abbiamo letto, che tutti quanti abbiamo seguito l'andazzo di questo mondo. Tutti quanti abbiamo seguito il principe dell'aria. Tutti quanti abbiamo vissuto secondo i desideri della carne. Abbiamo vissuto secondo i desideri della nostra mente. Tutti quanti siamo stati e siamo per natura figli d'ira. Tutti quanti siamo peccatori. E fino a quando continueremo a non centrare quel bersaglio, fino a quando non torneremo ad avere una relazione con Dio, ad ubbidirgli, a centrare la volontà che Lui ha per ognuno di noi, noi non potremo mai vivere veramente. Perché dove c'è peccato, c'è morte. E perché vivere veramente vuol dire abbandonare quel peccato e far sì che noi possiamo essere in una posizione tale così che Gesù possa restaurare la relazione per la quale siamo stati creati, la relazione con il Padre. Il passo in Efesini attesta che tutti quanti siamo morti, eravamo morti nei nostri peccati. In altre parole, la vita nel peccato è morte. Tu puoi avere tutti i soldi che vuoi. Tu puoi avere la famiglia più meravigliosa del mondo, tu puoi avere la carriera più importante del mondo, tu puoi avere il portafoglio più soddisfacente, ma se vive peccato, se c'è peccato nella tua vita, non stai vivendo sul serio, non stai vivendo veramente. E questa era la condizione di tutti e sarebbe stata la condizione eterna di tutti se non fosse stato per il verso 4, se non fosse stato per questo ma Dio. Non è meraviglioso quando sulla Bibbia leggiamo ma Dio? Questo vuol dire che la situazione può essere la più terribile del mondo, ma quando interviene Dio, quando interviene Gesù, tutto può cambiare. E questo è il caso, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, ci ha vivificati in Cristo ed è per grazia che siamo salvati. Dio ci ha dato la possibilità di vivere veramente. Noi eravamo peccati, eravamo molto peccati. Noi vivevamo, viviamo, non lo so qual è la tua condizione questa sera, ma senza Gesù eravamo morti, ma Gesù è venuto. Noi eravamo persi, disperati, macchiati, luridi, ma Dio è venuto e ci ha purificato e ci ha perdonato, e in Lui possiamo avere la giustificazione, la redenzione, in Lui possiamo andare al Padre e sentirci giusti per quel ma Dio. E ragazzi, chiesa, notate bene che Gesù non è venuto, che quel ma Dio non c'è, perché Dio è stato spinto dal nostro ravvedimento. E quindi ha detto a me, dai, si stanno impegnando, dai Gesù, vai a salvarli. No! L'unica cosa che ha spinto Gesù a venire su questa terra era essere ubbidiente al Padre, e il suo stesso amore per il creato, il suo stesso amore per te e per me. Noi non abbiamo implorato il suo aiuto perché eravamo così accecati e così comodi nei nostri peccati, nei desideri della nostra carne, nei desideri dei nostri pensieri peccaminosi, nella nostra natura di figli d'ira, che non ci rendevamo neanche conto di aver bisogno dell'intervento di qualcuno che fosse al di sopra di tutto questo. Ma Dio è venuto e ha cambiato tutta la situazione e può cambiare la situazione del tuo cuore questa sera. Quando ancora eravamo ribelli e morti nei nostri peccati, Gesù è venuto. Ma Dio vuol dire che quando noi lo ignoravamo, che quando noi eravamo orgogliosi nei nostri peccati, Dio è venuto per perdonarci e per purificarci. Ma Dio vuol dire che spinto dalla misericordia, Gesù non ci ha dato, non ha permesso che noi ricevessimo la punizione che meritavamo, ma se l'è presa Lui al posto nostro. Quel ma Dio significa che Gesù è così pieno di grazia che ci ha dato quello che non meritavamo, cioè il suo amore. Allora la domanda è: stai vivendo veramente? Guarda il tuo cuore, pensa al tuo cuore. Come stai con Gesù? Sei in pace con Dio? Stai vivendo la tua vita centrando questo, facciamo finta che rimanga attaccato, centrando il bersaglio, vivendo nella volontà precisa e perfetta che Dio ha per te. Io non lo so come sta il tuo cuore, io so come sta il mio, e io so che ho aperto il mio cuore quando avevo 16 anni a Gesù, l'ho invitato nella mia vita e le ho detto: Gesù, io sto vivendo non in accordo con la tua volontà, ma ti chiedo perdono per i miei peccati, entra nel mio cuore, vieni nella mia vita, io voglio vivere per te. Se tu non hai fatto mai questa preghiera, se tu ti rendi conto di essere distante da Dio, oggi è la tua occasione per riconciliarti con il Padre, per incominciare a vivere secondo la sua volontà, per incominciare a vivere veramente. Perché senza Gesù, nel peccato, non stai vivendo veramente. Però Gesù è venuto e ci ha dato la possibilità di fare questa preghiera che io ho fatto tanto tempo fa e incominciare a vivere davvero, incominciare a vivere fino in fondo. Come stai con Gesù? Come sta il tuo cuore? Amen, chiesa? Siamo d'accordo? Questa è una bella notizia, perché se il tuo cuore non sta bene, allora oggi puoi incominciare a stare bene. Sì? Primo, vivere veramente vuol dire abbandonare il peccato. Due, vivere veramente vuol dire crescere nella santità. Vuol dire crescere vivendo al centro della volontà di Dio. Crescere nella santità. È interessante come le parole di Paolo, che Paolo ha scritto, le ha scritte a una chiesa. Gli ha scritti alla chiesa degli Efesini in Efeso. Li ha scritti a un gruppo di persone che avevano fatto la scelta di accettare Gesù nel loro cuore. Queste persone vivevano con l'obiettivo, con il desiderio di onorare Gesù, di vivere secondo la sua volontà, di non seguire più i desideri della carne, di non vivere più nel peccato. Ma a queste persone, alla sua chiesa, Paolo ha scritto queste parole. Perché? Secondo me per due motivi. Il primo è perché che noi crediamo in Dio da un giorno, o se ci crediamo da 100 anni, è sempre buono ricordarci da dove veniamo, chi eravamo e da che cosa siamo stati salvati. È sempre buono ricordarcelo, perché ricordarsi ciò che eravamo senza Gesù, ricordarsi quel vuoto che avevamo nel nostro cuore, ricordarsi quel senso di insoddisfazione, di inadeguatezza, di incompletezza, significa riconoscere che oggi in Gesù abbiamo tutto quello che ci serve per vivere veramente. Non ha importanza se nel tuo portafoglio hai 5 euro o 500. Io la banconota da 500 euro non l'ho mai vista, tra l'altro. Però sto vivendo veramente, perché in Gesù ho tutto quello che mi serve. Ricordarsi che noi non abbiamo fatto nulla per ricevere il perdono, che noi non abbiamo fatto nulla per essere ricoperti della grazia di Cristo, significa non inorgoglirsi. Significa vivere con un'attitudine di gioia e di ringraziamento costante. Significa non risparmiarsi nel servire Dio, nel servire la Chiesa. Significa non risparmiarsi nel dare a Dio, nel dare alla Chiesa. Significa che non possiamo fare a meno di appartenere alla Chiesa di Cristo. Perché ci ricordiamo che è per grazia che siamo stati salvati. E l'unica cosa che possiamo fare in risposta è quello di amare Dio, di amare la Chiesa, di servire Dio e di servire la Chiesa. Siete d'accordo? Per questo ci serve ricordarci da dove veniamo e chi eravamo. Ricordarsi chi eravamo senza Gesù, quelle persone senza scopo, quelle persone sporche, colpevoli, significa avere grazia nei confronti degli altri. Significa amare gli altri. Significa perdonare gli altri, perché eravamo pure noi così. Senza Gesù, anche noi non avevamo uno scopo ed eravamo arrabbiati con il mondo. Senza Gesù, anche noi vivevamo delle vite spregevoli. Poi è Gesù che ha cambiato tutto. Per questo ci serve ricordarcelo. E poi il secondo motivo per il quale Paolo, secondo me, ha scritto queste parole alla Chiesa è perché vivere veramente, come vi ho detto, vuol dire crescere in santità. È chiaro che nel momento in cui abbiamo aperto il nostro cuore a Dio, abbiamo accettato e riconosciuto Gesù come personale salvatore, mediante la fede, per grazia, noi siamo salvati. Amen? Ci rendiamo conto di questa notizia? Allora, adesso lo provo a dire da capo. E facciamo che siamo quella chiesa vittoriosa che ci crede davvero. In Cristo, mediante la fede, per grazia, noi siamo stati salvati. Amen? Amen. Questa è la redenzione. Questo vuol dire che nell'attimo in cui abbiamo riconosciuto Gesù, noi abbiamo la salvezza, abbiamo la vita eterna. Tuttavia, chi è che può dire questa sera: io quel bersaglio lo colpisco e lo centro sempre? Chi è che può dire che è ubbidiente al 100% sempre alla volontà di Dio? Che significa essere sempre pazienti, non adirarsi mai, essere sempre pieni di amore, essere sempre pieni di misericordia, essere sempre pronti a predicare il Vangelo. Chi è che può dire che riesce a vivere questa vita perfetta e santa? Risposta giusta. Persino Paolo, se ci pensate, persino Paolo, che da persecutore della Chiesa è diventato poi l'uomo che ha dato la vita per la Chiesa, è diventato colui che ha scritto la metà del Nuovo Testamento, persino lui viveva questo combattimento tra il peccato e tra il vivere al centro della volontà di Dio. Lui lo viveva costantemente questo combattimento, e con lui anche noi. In Romani 7, 15-24, ve lo leggo. E queste sono le parole di Paolo. E dice, poiché le conosciamo benissimo queste parole, grazie, assicuro che le conosce. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra. Quanti vedono un'altra legge nelle proprie membra? Che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Oh, pover uomo che sono, me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Quanti possono comprendere queste parole? E quanti vivono la stessa frustrazione? Noi come Paolo, sul posto di lavoro, dobbiamo combattere contro quella bugia che ci porterà forse un guadagno maggiore, ma sempre una bugia rimane. Dobbiamo combattere contro quelle relazioni poco sottomesse che non rispecchiano la volontà di Dio. Dio ha in mente delle relazioni sante, pure, nel matrimonio. Tutto il resto è mancare il bersaglio. Dobbiamo combattere contro i nostri vizi, le nostre abitudini sbagliate. Ci troviamo a combattere contro tutte queste cose che fanno parte della nostra natura peccaminosa. Ogni giorno dobbiamo continuare ad essere salvati da quella natura peccaminosa. Ogni giorno dobbiamo vincere i desideri della nostra carne, la nostra fame di giustizia e di vendetta. Ogni giorno abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di Gesù. Abbiamo bisogno, sì, dello Spirito Santo che ci aiuti a centrarlo, quell'obiettivo. Perché da soli non possiamo. Allora Paolo viveva la stessa lotta che viviamo io e te ogni giorno. Ma lo stesso Paolo dice queste parole, Romani 8, 10, 11. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. C'è speranza! Se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Vivere veramente vuol dire rimanere saldi in Cristo, vuol dire essere riempiti dello Spirito Santo, vuol dire non accontentarsi di essere salvati, però allo stesso tempo fare quello che la nostra carne ci detta. Vuol dire rendersi conto che noi siamo stati non solo salvati, ma siamo stati anche chiamati a una vita santa, a una vita che c'entra quel bersaglio, che dice no al compromesso, che dice no alle relazioni non sante, che dice no alle bugie, che dice no all'orgoglio, che dice no alla fornicazione, che dice no a tutto quello che non fa parte della volontà di Dio. E questo da sola... Io non lo posso mai fare, ma Gesù, che vive in me, lo Spirito Santo che vive in me, anche lui, come ha fatto con Paolo, vivificherà il mio corpo mortale. Questa è la speranza che noi abbiamo. Così si vive veramente. Vivere veramente vuol dire abbandonare il peccato, ma vuol dire anche crescere in santità. Crescere in santità, insieme come Chiesa. Il libro di Efesini lo mette così, così chiaramente, che noi come Chiesa siamo insieme, siamo un corpo, così che possiamo insieme giungere alla misura della statura della pienezza di Cristo. Efesini 4:13. Questo significa vivere veramente. Allora, questo significa che forse dobbiamo rinunciare a quell'illusione di piacere che i nostri peccati ci portano a vivere, perché è solo un'illusione. Vuol dire che è necessario essere vulnerabili, renderci vulnerabili, farci aiutare. Se non riesci a spegnerlo quel computer, buttalo o chiedi a qualcuno che lo butti per te. Se non riesci a vivere delle relazioni sante, parla con il tuo pastore, parla con i tuoi leader, parlaci, fatti aiutare. Se sei un leader, non ti nascondere dietro questo nome. Se vivi nel peccato, non accontentarti, perché il tuo peccato macchia la Chiesa. E noi vogliamo essere una Chiesa pura, senza macchia. Sì? Questo vuol dire che dobbiamo crescere l'uno con l'altro, santificarci in Cristo, con l'aiuto l'uno dell'altro. Terzo, e ho 0 secondi in questo momento, però ve lo voglio dire lo stesso, lo volete sapere, Chiesa? Vivere veramente vuol dire abbandonare il peccato, vuol dire crescere nella santità e vuol dire rispondere alla chiamata che Dio ha per ognuno di noi. Questo significa vivere veramente. Il verso 10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le praticassimo. Vivere davvero fino in fondo significa fare le opere che Gesù ha preparato per ognuno di noi. Vuol dire, come abbiamo sentito nelle scorse settimane, ascoltare la parola e metterla in pratica. Vuol dire rispondere alla chiamata che Gesù ha per ognuno delle nostre vite. E se stai aspettando ancora qual è la tua chiamata, te lo dico io. La tua chiamata è vivere al centro della volontà di Dio e predicare il Vangelo a chi ancora non lo conosce. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandate. Questa è la chiamata per la tua vita. E facendo questo puoi vivere davvero. Romani 8:19 dice: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. E basta accendere e vedere il telegiornale per rendersi conto di quanto è vero questo. Divorzi, aborti, famiglie distrutte, ragazzi disagiati, bullismo, abusi, violenze fisiche e psicologiche, traffico umano, solitudine, terrore, disperazione, omicidi, suicidi, depressione, 7 attacchi terroristici, 120 morti. La creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Il mondo vicino o lontano è morto nelle sue colpe e nei suoi peccati. E quello che ho appena elencato non è altro che la conseguenza di questa condizione. Il mondo ha solo l'illusione di vivere. Ma chi non conosce Gesù è semplicemente un insieme di morti che camminano. E Gesù è la risposta. Gesù è la risposta, è la Chiesa. La Chiesa è chiamata a portare questa risposta. Noi, come corpo di Gesù, viviamo veramente quando manifestiamo, quando ci manifestiamo, quando predichiamo il Vangelo, a casa, a lavoro, tra i banchi di scuola, quando predichiamo in tempo e fuori di tempo, quando non ci vergogniamo, quando ci intestardiamo nel vivere una vita santa, perché quella sì che crea scalpore, perché quella sì che cambia le situazioni. Il mondo ha bisogno di una Chiesa la cui radicalità rende attraente Gesù e rende sempre più aperte, più larghe queste porte. Il mondo ha bisogno di una Chiesa che vive veramente e che vive veramente non per se stessa, ma per rispondere al bisogno della creazione, che aspetta con impazienza che tu, che io, che insieme predichiamo il Vangelo con i fatti e con le parole. Vivere veramente significa abbandonare il peccato, significa crescere in santità e significa rispondere alla chiamata che Gesù ha per la tua vita e per la mia vita. Questo messaggio non lascia nessuno fuori. Come sta il tuo cuore? Stai vivendo veramente? O stai vivendo a metà? O sei uno zombie? Perché che tu stia vivendo a metà, o che tu ti sia reso conto che non stai vivendo proprio, oggi c'è una speranza per te. Oggi puoi incominciare a vivere davvero, fino in fondo, perché tutti gli uomini muoiono, ma non tutti vivono davvero. Ma questo non vale per la Chiesa, perché la Chiesa di Cristo non morirà mai e vivrà veramente, per sempre. Perché non ci alziamo in piedi? E rimanendo con questa attitudine, con questo atteggiamento di concentrazione, chiudi i tuoi occhi e incomincia a pensare alla condizione del tuo cuore. Incomincia a pensare a che passo Gesù ti sta chiedendo di fare per darti quella vita abbondante che Lui ha già guadagnato per te. Forse devi accettare Gesù nella tua vita oggi. Forse ti rendi conto che sei morto nelle tue colpe e nei tuoi peccati, e io voglio darti davvero questa occasione. Forse ti rendi conto che in alcune aree della tua vita il peccato ancora è sovrano. Chiedi perdono e ritorna a Gesù. Chiedi allo Spirito Santo di aiutarti Lui a centrarlo quel bersaglio. O forse ti rendi conto che hai aspettato troppo per rispondere alla chiamata che Dio ha per la tua vita. Forse Gesù oggi ti ha ricordato che non stai vivendo proprio fino in fondo se ti vergogni di predicare il Vangelo, se ti vergogni di dimostrare a parole con i fatti quello che Gesù ha fatto nella tua vita. La creazione aspetta che tu ti manifesti. Chiudiamo tutti i nostri occhi. Hai bisogno di accettare Gesù nel tuo cuore? Se hai bisogno di abbandonare il peccato nella tua vita, se non hai mai fatto questa scelta, io ti prego di alzare la tua mano in questo momento e io voglio pregare per te. Grazie, grazie. Non ti accontentare di vivere a metà. Dio è venuto, ha mandato Gesù affinché tu possa avere una vita abbondante. E questa vita abbondante non ha niente a che vedere con la distanza, con il peccato, con la ribellione. Non continuare ad essere ribelle alla volontà di Dio, Centralo quel bersaglio. Ora lo sai, non sei più giustificato. Alza la tua mano, io pregherò per te. Se vuoi dire: Gesù, mi rendo conto che ho sbagliato, ti voglio chiedere perdono per i miei peccati. Vieni a vivere in me e con me. Se sei tu, perché non alzi ora la tua mano? Grazie. Potete abbassarla. Se ti sei reso conto che devi crescere in santità, che ci sono delle aree nella tua vita dove Gesù non è glorificato, dove non stai centrando quel bersaglio e hai bisogno che lo Spirito Santo ti aiuti, perché non alzi ora la tua mano? E io pregherò per te. Molte mani si stanno alzando. Tutte le mani si dovrebbero alzare. Pregheremo adesso, Chiesa. Sì, pregheremo adesso. Pensa a chi nella tua sfera di influenza in questo momento sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio e decidi ora. Non ti faccio alzare neanche la mano, perché è una decisione che tutti stiamo prendendo oggi. Decidi ora di vivere veramente rispondendo alla chiamata che Gesù ha per la tua vita. Perché noi alziamo tutti quanti le nostre mani e incominciamo davvero tutti quanti insieme a pregare. Tu vuoi che questo succeda nella tua vita? Sì. Allora esprimilo. Preghiamo tutti insieme. Preghiamo tutti insieme con forza. Amen. Perché come la parola di Dio, come la tua parola ci insegna, tu sei la verità, tu sei la via che vogliamo percorrere e tu, Signore Gesù, sei la vera vita. E noi, Padre, con te e in te vogliamo vivere veramente. Vogliamo vivere veramente abbandonando il peccato che c'è nella nostra vita. Vogliamo vivere veramente crescendo in santità, restaurando, Signore Gesù, la nostra relazione con te giorno dopo giorno. Signore Gesù, essendo sempre di più conformi alla tua volontà, alla tua immagine, alla tua somiglianza, Gesù. Vogliamo vivere veramente rispondendo alla chiamata che tu hai dato ad ognuno di noi, alla chiamata, Signore Gesù, di predicare il tuo Vangelo, di presentarti come Signore e Salvatore, al lavoro, in famiglia, tra gli amici, Signore. Noi vogliamo vivere veramente, Signore Gesù, in accordo e conformi alla tua volontà. Gesù, aiutaci. Gesù, aiutaci. Tu, Padre, stai sentendo ogni singola di queste preghiere. Tu stai guardando nel profondo dei cuori della tua Chiesa. E io ti prego, Signore Gesù, di operare. Io ti prego, Signore, che la tua Chiesa, che oggi noi non ci possiamo accontentare di vivere una vita mediocre, non ci possiamo accontentare di vivere una vita contaminata, di vivere una vita a metà, ma che possiamo aggrapparci a te, Gesù, che possiamo vivere veramente secondo la tua volontà perfetta, buona e gradevole che tu hai per ognuno di noi. E la Chiesa tutti insieme dichiara: Amen. Perché non...